24 di Giovanni Minoli. Renzi ha detto una cosa che colpisce molto, perché si è dichiarato deluso delle scelte della Mogherini. Ha detto: non trovo sponda in lei. È durissimo, è un'affermazione. Ha fatto una battaglia fino alla morte per avere la Mogherini. Guardi, io capisco che Federica Mogherini abbia l'obbligo di lealtà al Collegio dei Commissari. Vedo però che molti dei suoi colleghi, che dovrebbero rappresentare l'Europa quanto lei, non perdono occasione per difendere gli interessi nazionali. Senta, non trovo sponda in lei. Non l'ho detto io, l'ha detto Renzi. Mi sembra un commento durissimo. Guardi, io le posso dire, devo ammettere che le ultime prese di posizione sullo scontro Renzi-Juncker della Mogherini mi sono sembrate francamente un eccesso. Insomma, la Mogherini difende poco l'Italia e non il governo che l'ha voluto. Un po' il detto: fatta la festa, gabbato lo santo. Ah, ecco. Dunque, fatta la festa, gabbato lo santo, nella parola dell'europarlamentare Simona Bonafè, ieri mattina, qui a Mix 24. Sempre ieri nel pomeriggio, poi la Bonafè ha commentato: mi dispiace che le parole pronunciate questa mattina sull'alto rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea durante la trasmissione radiofonica Mix 24 siano state strumentalizzate dalle forze di opposizione. Allora, queste erano le sue parole. Giudicate voi dov'è la strumentalizzazione. Adesso parliamo d'altro. Io mi fidavo e affidavo alla banca. Salvate da un consiglio dei ministri convocato eccezionalmente le quattro banche commissariate in Italia. Ma dove li mette i soldi? Io li metterei sotto la piastrella qua. Murati. Non ce ne sono più soldi, no, dove li metto? Non ce ne sono. Io fino adesso ho comprato degli immobili. In questo momento non so dove metterli. Averli... Secondo dati Banca d'Italia, in Italia il risparmio delle famiglie è il più alto d'Europa. Il nostro risparmio però non lo spendiamo. La verità dei fatti impone di dire che non c'è rischio sistemico per le banche italiane, che le banche italiane sono molto più solide di banche di altri paesi. Lo stato di solidità delle banche italiane è oggi comunque migliore di quello tedesco. Dunque... il sistema, come dice il presidente Renzi, può essere anche solido, ma segni di incertezza dopo l'introduzione del bail-in sono moltissimi. Ecco, non si può dire che la fiducia dei risparmiatori sia in questo momento al massimo. Professor De Rita, il risparmiatore italiano è confuso. Il caso della Banca Etruria, il bail-in, l'abbiamo detto, la norma europea sui salvataggi bancari. Che cosa hanno provocato nella psicologia del risparmiatore? Di andare nel sommerso, di tenersi i soldi nel cassetto della scrivania, o non dico sotto il materasso, ma quasi. Ma perché c'è una paura di dover affrontare qualcosa che non sono preparati a fare? Beh, nessuno di noi è preparato a fare il risparmiatore a oltranza in questo momento, perché la nostra capacità finanziaria è relativamente limitata. Le famiglie italiane non hanno studiato finanze e nessuno glielo dovrebbe rimproverare. Ma cioè, in realtà, diciamo, la filosofia del bail-in, che tende a trasformare il risparmiatore in operatore finanziario a rischio, è questo che gli italiani rifiutano? Ma questo secondo me sta arrivando, non è ancora... un elemento scatenante. Il giorno in cui la gente capisce quello che sta dicendo lei, cioè la trasformazione del risparmiatore in azionista, ci sarà un crollo ulteriore. Per ora le faccende sono un po' più articolate, cioè il vecchio bot people, cioè il popolo che si occupava e si fidava dei bot, se vai in banca e chiedere di prenotare, la banca dice sì, però certo, guarda, non ti rende una lira e noi da oggi in poi ti facciamo anche il servizio a pagamento e non più gratis, quindi certo, va sotto zero con i bot. Ma... se vai in banca la banca ormai ti dà lo 0,5, certo, quanto te lo dà, certo. E ci rischi quanto vuoi. Se va da un assicuratore, probabilmente la compagnia assicurativa è più solida di una banca piccolina, però l'italiano medio ha sempre avuto una resistenza a polizza, certo, perché è troppo complicata, non lo sa, non sa che cosa c'è. Cioè, ma il risparmio in qualche modo da virtù si sta trasformando in un pericolo che non si vuole affrontare? Un pericolo o una sfida che non si vuole affrontare? Una sfida, naturalmente. E certo. Naturalmente qui c'è un problema di fatto, cioè finora chi è stato il consulente principe del risparmiatore italiano? Il direttore di banca, certo. Lì andavamo. E adesso c'è meno fiducia. E c'è meno fiducia nel direttore, perché dice, ma il direttore sta facendo il mio interesse o l'interesse di coprire la banca, di aumentare i depositi, certo, di aumentare di vendere obbligazioni ordinarie o subordinate, diventa una cosa. Allora il direttore di banca, che era diciamo il guru, certo, il confessore, sì, non lo è più. Certo. E devi andare altrove. E l'altrove è difficile da identificare. E l'altrove o è un fondo di investimento o è una polizza assicurativa. Ecco, ma lei nel suo articolo sul Corriere della Sera ultimamente, per evitare questa incertezza, questo, diciamo, questo caos mentale in qualche modo che prende un po' tutti i depositanti, fa delle proposte che si rifanno al passato. Quali sono? Noi abbiamo avuto un periodo, gli anni 30, in cui il regime, chiamiamolo ancora così, sì, aveva il problema di rassicurare la popolazione, certo, specialmente sul piano previdenziale del futuro, e al tempo stesso mettere ordine nella finanza. Le tre soluzioni furono quelle, da una parte di istituire l'INPS, che garantiva il futuro dei, certo, lavoratori con, certo, le pensioni, e garantiva almeno quel po' di welfare che allora era importante. Adesso c'è anche la parte sanitaria, certo, c'è la longevità, eccetera eccetera, quindi però quello fecero. La seconda cosa, che fu un tentativo o una tentazione di Mussolini, di fare un grande prestito, certo, e oggi si potrebbe dire facciamo un grande prestito con una qualche funzione, o facciamo un piano di infrastruttura, o meglio ancora facciamo un tentativo di ridurre il debito, che è la cosa più importante, il nodo scorso io, esatto, che, a cui siamo appesi, che si strozza. Ecco, quindi, oppure terza soluzione, sì, che fu stabilita allora, fare una serie di interventi articolati, la riforma delle banche, quindi per ridare fiducia alle banche, che a quell'epoca non ne avevano tanta, c'erano stati fallimenti, certo, quindi riforma bancaria, creazione dell'IMI. In fondo l'IMI era l'Istituto Immobiliare Italiano, che doveva gestire a fini pubblici ma con garanzia statale i risparmi della gente, e in qualche modo anche la riforma, la costituzione dell'IRI, perché l'IRI garantiva investimenti pubblici e quindi un po' di aumento dello sviluppo del Ma con i vincoli europei questi strumenti non sono più attivabili. Appunto, allora il problema è oggi, c'è qualcuno, non io che non sono del settore, che ha qualche ingegneria finanziaria da creare, perché altrimenti non c'è altra soluzione se non quella di garantire una sicurezza bancaria, ma vediamo che questo paese non è stato al tavolo della trattativa, esatto, del bail-in, non è stato al tavolo e quindi perde anche quel tipo di rassicurazione che era in banca, i soldi ce li metto. Ecco, professor De Rita, per chiudere con un filo di speranza, su cosa dobbiamo contare? Ma siccome tutto va molto disperso, perché la gente va ancora, mette un po' di soldi in banca, un po' di soldi nella polizza, un po' di soldi nei fondi di investimento, va un po' sperso, c'è un problema di garanzia delle singole offerte. Dare delle certezze, insomma. Non possiamo essere noi consumatori e risparmiatori a decidere se è meglio quello o meglio quell'altro. Ci vuole, non dico un albo, ma ci vuole una graduatoria di reputazione in coloro che offrono gestione del risparmio, che oggi non esiste. E che soprattutto non obblighi a diventare per forza responsabili, come se si fosse degli azionisti. È come se stessimo a fare speculazione. Appunto. Io non sono uno speculatore, se prendo o se apro un conto corrente in banca. Certo. Voglio essere sicuro e basta. Se, se prendo un'obbligazione so che è più delicato, ma sul mio conto corrente bancario abbiamo tanto urlato contro Giuliano Amato quando ci fece ci levò dalla tasca in una notte lo 0,25% sui conto correnti dicendo che era un furto, e oggi invece altro è, ancora, che 0,25. È ancora più preoccupante la cosa, quindi c'è un problema. Io ritengo ad esempio che tutti coloro che fanno seriamente gestione e risparmio, per esempio associazione, che sono tutte non persone ma sono enti, strutture solide, dovrebbero prendere loro la responsabilità di dire facciamo un documento tutti gli anni in cui diciamo che questi sono i riferimenti affidabili, altrimenti stiamo in mano agli spicciafaccende, stiamo in mano a coloro che ti dice dalli a me che te do il 30, il 20%. Vabbè, e quindi lì bisogna dubitare. Noi e ci ricordiamo, cioè, almeno la nostra generazione si ricorda che addirittura i frati Cappuccini hanno fatto speculazioni su questo, e naturalmente la gente dei frati Cappuccini si fidava. Certo. Oggi credo non si fiderebbe di nessuno. Ecco. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS. Mario, c'è Andrea da Modena che ci fa un quesito interessante. Non potrebbe essere adeguato mettere risparmi in posta che dovrebbero essere esenti dal bail-in? Io non lo so se sono esenti o no. I libretti di risparmio postale in teoria non sono sottoposti a quella norma. Poi c'è tutta una discussione anche dottrinale, è stata fatta sul fatto che poi le poste fanno attività bancaria, infatti, quindi devono essere sottoposte, scusando il gioco di parole, a quel tipo di diciamo di trattamento giuridico. La domanda è interessante, cercheremo di dare una risposta precisissima. C'è un domino in corso in questo momento. Ecco, ma intanto come è diviso il risparmio italiano, Mario? Ma dunque, qua siamo di fronte a un paradosso, perché l'Italia è un paese ricchissimo sotto questo aspetto. Profilo. La ricchezza delle famiglie italiane, secondo le ultime stime di Banca Italia, è di 8.730 miliardi di euro. Il bene supremo delle famiglie, lo sanno tutti, ma bisogna pur ribadirlo, è la casa, sono gli immobili, che sono per un importo di 5.500 miliardi. Poi ci sono fabbricati non abitativi, terreni, il cosiddetto capitale fisso, che sono macchinari e attrezzature, sono altri 750 miliardi. Oggetti di valore, gioielli, quadri, arte, e chi più ne ha, più ne metta, beato lui, sono altri 100 miliardi. E poi ci sono, e fin qui siamo a quelle che vengono definite nei bilanci attività reali. Sì. Poi ci sono le attività finanziarie, no? Di cui noi stiamo parlando, e lì ci sono circa 3.900 miliardi nei bilanci delle famiglie italiane. Sono divisi in vari modi, appunto, depositi bancari, risparmio postale. Insomma, li vogliono prendere tutti questi soldi, cioè come se fosse un attacco al risparmio italiano. Siamo l'ultimo paese che risparmia, questi soldi fanno comodo in Europa. Però, diciamo che la ricchezza netta è pari a 8 volte il reddito disponibile. Questo ci piazza ai vertici della classifica mondiale. Cioè noi siamo, soldi fanno gol a tanti. Siamo come Francia, Giappone, Regno Unito. Si può dire? Allora, se una banca, qua dobbiamo decidere come sempre, vecchio quesito che posi a suo tempo settimane fa, no? Alla fine del 2015. Allora, deve pagare il contribuente o deve pagare l'azionista? Vabbè, questo oramai col bail-in paga oltre 100.000 euro di deposito, paga anche il depositante. Sì, sì. Fino a 100.000 è garantito. Ho bisogna detto, dirlo, oltre 100.000 euro di deposito paga anche il depositante. E comunque uno che apre un conto corrente in banca, francamente, non è detto che vuole diventare azionista, come diceva giustamente Derita. No, ma io sono una consapevolezza da acquisire, ci vuole del tempo almeno. Convinto che il problema di fondo è l'ignoranza in materia economico-finanziaria, e che in molti casi si sia approfittato di questo. L'ignoranza e la disinformazione, per sottoscrivere. Non solo. Dopodiché io penso che però gli azionisti debbano essere considerati responsabili, perché investono in quote di capitale, e che vada fatta dal governo italiano, altre che le polemiche con Juncker, ma un serio chiarimento su cosa fare con il bail-in. Alcuni paesi lo hanno sospeso, altri lo stanno mettendo in discussione, diciamo così, però io questo non lo vedo, non ho visto quella richiesta, ho visto una polemica Certo, non siamo ancora al livello di quella richiesta, siamo... perché non c'è una consapevolezza che ti porta fino lì. Insomma, sai cosa dicono dalle mie parti? Sì. È gazzosa, mi segui. Cioè, Giovanni, cioè, sui tavoli diplomatici si va con le cose concrete. Sì. Abbiamo un problema col bail-in nell'applicazione che tutti i partiti hanno votato, quasi. Certo. Prima a Bruxelles e poi a Roma. Benissimo, se c'è questo problema si cerca una soluzione. Abbiamo un problema con 300 miliardi di crediti deteriorati, di cui 200 miliardi sono sofferenze? Si risolve, nel senso che si propone una bad bank di sistema, la si chiarisce in tutte le sue forme all'opinione pubblica, sì, cioè come deve funzionare. Andava fatto forse prima di firmare il bail-in, come ti spieghi? Non ci sono dubbi, però no, i crediti delle banche stavano là sotto il tappeto già da prima. Lo so, però nessuno ne parlava. Senti, tu come ti spieghi, Pietrangio, questa contraddizione? Questa contraddizione? Quando c'era lui? Allora. No. Poi lui chi stai a te? Perché Derita ha spiegato un passaggio. Allora, il concetto è semplicissimo. In una situazione normale è la banca al servizio dei risparmiatori e non il contrario, il risparmiatore al servizio della banca. Dopodiché vi propongo una teoria che è quella che contrappone il limone a un altro ortaggio. Ascoltate. Ma tu che conto hai? Conto limone. Qua è l'inghippo. Tu devi fare come a me, ti devi fare il conto cetriolo. E qual è la differenza? Ti spiego che me l'hanno spiegata in banca. Col conto limone la banca ti spreme, il succo se lo prendono loro e le bucce le danno a te. Invece col conto cetriolo... Beh, il conto cetriolo, cioè, beh, lo dice la parola però stessa. Possiamo dunque chiarire che cosa è successo ieri, cioè in borsa un attimo. Cioè le banche sono, diciamo, sotto attacco speculativo, però non è che nasce così perché si sono svegliati la mattina dai trader e hanno detto vabbè, facciamo l'attacco speculativo. No, e nasce dal fatto che le banche italiane hanno questi 200 miliardi, su cui non si è trovata una soluzione. E siccome sono entrate in vigore dal 1 gennaio le norme del bail-in, tutti dicono, ma che fa l'Italia? Ecco, allora sentiamo un pochino che cosa dice di fare. Il problema è arrivare, quindi, l'abbiamo detto, a una cultura diversa, che ci piace, no, però è diventata necessaria per la condivisione della ristrutturazione del sistema bancario e dei suoi rischi. Tocca a ognuno di noi pensare di fare la sua parte. Con Luigi Zingales, che è un economista, professore di finanza, docente all'Università di Chicago e editorialista del Sole 24 Ore, fra le altre cose. Certo. Ecco, professor Zingales, lei ha fatto una cosa precisa. Ha chiesto una moratoria sulle norme europee per il salvataggio delle banche. Ecco, supponiamo che venga approvata, che cosa succede alle banche italiane in crisi? Beh, la moratoria serve a facilitare una fase di transizione tra il momento in cui, tra oggi, in cui le banche si finanziano almeno in media per il 10% con bond piazzate alla clientela, verso un mondo in cui invece si finanziano interamente con bonds sul mercato diciamo, istituzionale. Perché? Perché la regola del bail-in impongono che in caso di crisi i bond devono subire delle perdite. Appunto, certo. Questo secondo me è giusto, però è giusto nella misura in cui gli investitori in questi bond sono avvisati, avvisati una competenza specifica. Esatto. Ecco, mentre oggi non è così. Non è stato così. Ecco, quindi oggi la situazione è ancora priva della necessaria informazione. Non solo oggi è priva della necessaria informazione, ma anche i detentori di questi bond sono persone che hanno dei portafogli non ben diversificati. E quindi, come la tragedia di quella persona che si è suicidata, aveva tutti i risparmi in un unico rischio, diciamo. Esattamente. Ecco. Questo, i consulenti finanziari dovrebbe essere la prima regola che gli dicono. e la persona alla banca che gli ha suggerito di comprare questo avrebbe dovuto informarsi. Gli compra questo, ma anche questo e anche questo, appunto. Professor Zingari, se faccio una domanda sull'Europa e sui suoi patti, sostanzialmente gli accordi di Maastricht non sono stati realizzati. Bisogna rinegoziare il patto di stabilità, cioè si può tornare indietro? Che cosa si può fare oggi per contrastare questa Germania in qualche modo dominante? Secondo me quello che bisogna fare è cercare di rinegoziare la situazione, ma non da una posizione di chiedere alla Germania maggiore flessibilità, perché questo secondo me è una partita persa in partenza. È quella invece di fare una discussione su qual è l'Europa del futuro che noi vogliamo. Ecco, ma può essere un'Europa, può essere un'Europa a due velocità, con due monete, un euro A e un euro B? Secondo me è anche possibile che sia così a un certo punto, se il Sud Europa non è in grado di rimanere al passo con il Nord Europa. Ma la cosa più importante, secondo me, è sottolineare che in questo momento l'Europa che abbiamo è un'Europa egemonia tedesca. Certo, non c'è dubbio, ne abbiamo parlato. Tutte le regole sono introdotte dalla Germania e valgono fino a che convengono alla Germania, fino a che convengono alla Germania. Esattamente. Allora, l'unione monetaria, qualsiasi economista dice che l'unione monetaria non è sostenibile senza una qualche forma di redistribuzione fiscale. Allora, secondo me la vera discussione che va messa sul piatto oggi è dire quale forma di distribuzione fiscale facciamo oggi per renderla possibile, oppure la Germania non vuole fare nessuna forma di distribuzione fiscale, allora dobbiamo rescindere i patti, perché non è possibile avere una moneta comune senza una redistribuzione fiscale. Certo, ecco, ma Draghi dice che l'euro è irreversibile, lei è dello stesso avviso? Draghi è in una posizione in cui deve dirlo. Deve dirlo. Secondo me l'unica cosa irreversibile è la morte. Ah, certo, abbiamo visto come dire imperi di ogni tipo che si sono sfasciati, quindi di irreversibile, a parte la morte, ha ragione, non c'è niente. Ma l'Europa delle frontiere aperte entra in crisi, Schengen sta morendo, sembra così. Ecco, ma che regime di circolazione di persone, merci, servizi si può instaurare al posto di Schengen? Esiste un'alternativa a Schengen? Diciamo, economico, quello che mi preoccupa è che Schengen è per la maggior parte degli europei l'aspetto migliore e più di successo dell'Europa. Certo. La generazione Erasmus, diciamo, è una generazione Schengen. Erasmus e Schengen sono le cose più belle che abbia fatto l'Europa. Esatto. Se togliamo queste, rimane solo l'Europa delle difficoltà, della tensione, dell'austerità. Non l'Europa come immagine ideale. Non può reggere. Non è un problema. Non può reggere. Senta, le faccio un'ultima domanda, professore, la ringrazio. La Renzi ha criticato molto la Germania in queste ultime settimane. È una strategia che la convince, oppure Merkel e la Germania imporranno la loro visione? Secondo me il presidente Renzi sbaglia nel modo come attacca la Germania. Nel senso che l'attacca in una maniera... da 5 Stelle o Salvini, non avendo una visione alternativa che dimostra come dal punto di vista ideale la Germania sia sbagliata. Cioè un attacco senza proposta, diciamo, dice lei. Esattamente. Cioè, sostanzialmente è un attacco politico, cioè è una posizione politica quasi elettorale, diciamo. Che è una distrazione, no? Sì. O è anche una distrazione. Posso dire, distrarre l'opinione pubblica rispetto ai guai che sta creando. Io non penso che l'Unione Europea sia un totem che... No, certo, dice una cosa Zingares, scusa Mario, dice una cosa Zingares molto importante. Dice Schengen e l'Erasmus sono i due pilastri su cui si costruisce l'Europa dei popoli. Se no resta solo l'Europa della finanza, e su cui forse da sola non ce la fa. E su cui Giovanni, lui, Matteo Renzi ha costruito la sua narrazione, certo, perché certo. Adesso va a contraddire l'essenza della sua progetto politico. Più che altro lui non va, mi dispiace però questa è la realtà a questo punto, lui non va preparato al tavolo della trattativa diplomatica, cioè non basta dire io non voglio questo, tu ci devi dire allora cosa vuoi e tu. E quindi devi costruire culturalmente con le alleanze infatti, quella posizione. Certo, infatti Zingales, che è persona seria, dice qua il problema non è tanto che lo critica, è che lo critica sterilmente. Appunto, sembra una posizione, cioè non basta la posizione politica, poi tu devi avere un dossier diplomatico anche tale da offrire poi la soluzione. Su quello poi il 5 Stelle e Salvini sono troppo più avanti, esatto, non li puoi seguire. Perché devo prendere la copia cattiva? Appunto. Prendo quella buona. Allora. Ecco, comunque, Pietrangio, tu comunque per te le banche cosa sono? Offrono un servizio indispensabile o sei di quelli che pensa che bisogna tenere i soldi nel materasso? Ho una terza ipotesi. Sì. Sì. E cioè che la politica deve sempre controllare il trafficare delle banche, deve essere la voce più forte rispetto alle speculazioni dei finanzieri. E ancora una volta spiegare che la banca è al servizio del cliente, del risparmiatore, e non il contrario. Ecco, Giovanni ci scrive: tutti hanno soluzioni per come risolvere il problema. Ne prendo una interessante. Mario dice: Giovanni, secondo lei non sarebbe utile vietare per sempre le vendite allo scoperto, tipico strumento di chi vuole solo speculare? Tanto boh, per sai, vabbè, sì, quello fanno quando della... l'hanno fatto anche l'altro giorno. Infatti, cioè, non, secondo me non è quello. Vabbè, problema. Ce l'hai una canzone per chiudere questo tristissimo dibattito? No, tre cose. Andare leggete un libro, La grande scommessa di Michael Lewis, che è uscito qualche anno fa, è molto interessante, racconta bene, la crisi finanziaria del 2008. Andate a vedere il film da cui è stato tratto. Certo. Dal libro, appunto. E poi io direi Dire Straits, Money for Nothing. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working, that's the way you do it. Let me tell you, damn guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS. E tu, Pietrangelo, cosa ci fai ascoltare? Ecco. Sometimes it seems the going is just too rough. Everything's gone wrong no matter what I do. Now and then it seems like life is just too much. But you've got the love I need to see me through. When food is gone, you are my daily need. Oh. Allora? E il senso del possesso fu appunto pre-alessandrino. Poi capitano le cose, capitano in un modo brusco. Insomma, chi possiede l'amore deve farne pasto, deve trasformarlo in un cibo, specialmente per quando gli amici a un certo punto se ne vanno e si resta soli in casa. Ed è successo ieri sera. Penelope aveva avuto i proci a cena e insomma se ne sono andati. Poi ha chiamato stamattina, chiesto questa canzone, l'ha dedicata. Penelope la dedica a nessuno. Con un messaggio: non ditelo a nessuno. The things you love, you lose. You got the love, you need to see me through. You got the love. Andiamo a raffica, Pietrangelo. Ce l'hai il tuo salamino? Eccolo. Macchinisti, fuochisti, uomini di fatica, ve lo ricordate? Ve lo ricordate che cos'era? Ascoltiamolo! Fuochisti, scambisti, lambisti, conduttori, frenatori, gente di fatica, facchini, impiegati delle ferrovie dello Stato! Cosa vuole da qui, lei? Cosa vuole? Cosa voglio? Voglio? Cerco il mio posto. Per favore, non gridi, qui c'è gente che dorme, capito? Va bene. Se vuole il suo posto, vada giù in seconda classe, in coda, in coda. Giovanotti, niente capo, niente coda, capito? Io ho il biglietto per questo carrozzone qui. Oh, niente capo e niente coda. Lui ha il biglietto per questo carrozzone qui. Mario Denis Verdini l'ha fatto capire che appieno titolo. Ma io ho letto una cosa meravigliosa. È meravigliosa, infatti, sì, lui ha il biglietto a pieno titolo. E questo qua lui ci fa da conduttore, manovratore, fuochista. Insomma, ha inventato tra tutte le formule pure quella de affiliati al Partito Democratico. Che affiliati è una bella parola. Affiliati, affiliati, apre, evoca, insomma, schiude, allude. E dischiude, allude e illude. Altro. Ha detto anche altro, infatti ha lui detto anche altro. Con un colpo d'ala, l'ala, che sarebbe l'Alleanza Liberal Popolare Autonomia, il suo gruppo, lui si moltiplica, aumenta, raddoppia e non lascia. Da 17 saranno 30. e avendo lui il biglietto per questo carrozzone qui o carrozzone lì, che dir si voglia, insomma, mette in atto una strategia. Cosa dice? Io mi pongo nei panni di un italiano che deve votare, e ci sarà pure tra questi italiani un italiano che vorrebbe votare Renzi, però ha dei problemi perché comunque Renzi è pur sempre il capo dei comunisti. Ora non si sa chi tra Renzi, comunisti, insomma, sempre quelli sono. Vabbè, lui fa la sua politica. Verdini ha fatto questo ragionamento. Stringiamo. Allora non si capisce mai chi tra i due, tra Verdini e Renzi, uno sia Machiavelli e l'altro sia Guicciardini. Però, sai Giovanni, avevi ragione tu. Lo sai perché non poteva funzionare quella storia di Carrai? Poteva funzionare perché giustamente Verdini l'ha bocciata. Se l'ha bocciata vuol dire che non poteva andare avanti. E non poteva andare avanti perché lui, essendo agente segreto, il Carrai, non poteva aspirare al ruolo di agente segretissimo, perché c'è sempre il problema dell'intelligenza con il nemico. E accusandolo di intelligenza poteva essere accusato, ma come dicevano Franco e Ciccio Ingrassia, a noi di intelligenza non ci può accusare nessuno. L'abbiamo ricordato prima, il 19 gennaio del 2000, esattamente 16 anni fa, moriva da Mamet Bettino Craxi. Tra poco, dopo la pubblicità, ripercorriamo la vicenda politica, umana e giudiziaria del segretario del Partito Socialista Italiano. Pubblicità. Mix 24, i gialli della storia. Eccolo, eccolo. Stanno tirando di tutto. Attenzione. Ecco, ce ne arrivano addosso anche a noi. Monete, tutto, lanciano tutto. La giornata delle voci su Bettino Craxi. Un susseguirsi di ipotesi sul luogo in cui l'ex segretario del Partito Socialista si troverebbe. Per alcuni sarebbe in Italia, per altri in Francia, per altri ancora addirittura oltreoceano, negli Stati Uniti. Io tornerei solo come un uomo libero. Diversamente io in Italia non tornerò, né vivo né morto. Ha chiesto di parlare il Presidente del Consiglio, ne ha facoltà. È scomparso un leader politico che ha vissuto e sofferto in solitudine l'ultima parte, la più dolorosa della propria esistenza. Ciò che appare evidente è l'intreccio tra la vicenda personale di Bettino Craxi ed il consumarsi negli anni che abbiamo alle spalle di quella tragedia italiana che ha travolto una parte larga del nostro sistema politico e della sua classe dirigente. Per molti versi Craxi ha incarnato quella tragedia. Ne ha subito in prima persona le conseguenze, in ciò protagonista fino alla fine di una stagione politica che non si può ridurre alle inchieste giudiziarie, ai processi, alle sentenze, ma che va interpretata e compresa in modo corretto ed obiettivo. Era Massimo D'Alema, all'epoca Presidente del Consiglio, all'indomani della morte di Bettino Craxi il 19 gennaio del 2000. Oggi a Mix24 ripercorriamo la vicenda politica e umana del segretario del Partito Socialista Italiano tra il 1983 e il 1987. Una figura complessa e affascinante, tra le più rappresentative della scena politica del Novecento. E la sua storia politica comincia nell'estate del 1976, dopo una grave sconfitta elettorale del PSI, che porta alle dimissioni dell'allora segretario Francesco De Martino. Dopo 36 ore di trattative, il comitato centrale del partito nomina il giovane leader della corrente autonomista, Bettino Craxi. Ascoltiamo il ricordo di Massimo Pini, amico e biografo di Craxi. Cosa decisero? Decisero di prendere l'uomo politico del partito considerato più debole e di fare lui segretario, pensando, naturalmente, primus inter pares, si diceva, prima occasione, questo lo facciamo fuori. Questo partito vive se è autonomo, ha bisogno dell'autonomia come l'aria, e il partito deve riuscire a sviluppare sempre meglio la sua identità autonoma. Appena eletto, Bettino Craxi, 42 anni, milanese, viene accolto con scetticismo dalla stampa.